energia. Tu lascia che a guidarti sia energia. È chimico-elettronica, è energia. Sostanza viscerale a puro istinto musicale. Se prima non la bevi, la forza è l'energia. Se prima non la bevi, la forza è energia. La forza è energia. Tu cerca l'energia. La forza è energia. La forza.